Gira la ruota. Yeah, yeah. Vai con la ruota. Vedi anche i bambini. Oh, yeah. Allora chi la gira la ruota? La giro io. Allora, no, giro io. La giro sempre loro. Già subito. Allora, così. Intanto vabbè. L'ho inventata e costruita io, la giro io. Allora proprio bambini. Vabbè, G di gufo. Ma no, ma voglio dire, ogni volta un albero, un animale, non possiamo vabbè, spiegare siamo, queste ma cose. Ma siamo all'asilo, drago. Ma lo sanno tutti cos'è un gufo, un animale. È un animale, un pennuto, no? Sì, un notturno. Un rapace notturno, bravi. Finita la lezione sul gufo, ma scusa. Ma non è vero, allora, i gufi, ah, il gruppo. Sì, no. E poi anche i gufi, quelli che portano sfortuna, quando guardi la partita e queste cose qua. No, dai, allora, qualcosa di più attuale. Siamo semi-giornalisti, siamo in una radio semi-giornalistica. Quindi siamo semi-giornalisti. Dobbiamo allora, stare sul pezzo. La notizia è? La notizia è. Adesso fammi pensare sui giornali che cosa ho letto. G come gioco. Gioco. Ti va bene, cioè, gioco. Bambini, vi va bene. Beh, gioco, se non va bene a noi. Però non come gioco, bambini, Schiller, Rousseau, quelle cose lì, ma come gioco è? D'azzardo. Perché è stata scoperta la ludopatia, la malattia di quelli che giocano d'azzardo. È stata scoperta adesso. È stata scoperta. È stata scoperta nell'Ottocento. C'è un russo che ha scritto un romanzo. Che infatti voi conoscerete essere il romanzo intitolato. Chi la dura la vince. Chi gioca non gioca. Vabbè, gioco d'azzardo, vi va bene allora. Gioco d'azzardo, praticamente cos'è il gioco d'azzardo? Cos'è? Quando si gioca a carte o a dadi, a soldi, capito? Ho capito allora. Si gioca a soldi, a carte, a dadi. A dadi, sono tre giochi diversi. È una cosa. Se mi scambi le figurine, uguale. È uguale, una cosa del sono genere. Sono le lotterie, il super enalotto, il lotto, dimmene un altro, il bingo. Le scommesse del calcio scommesse. No, il calcio scommesse, no, quelle con le clandestine. Scommesse sul calcio. Vabbè, insomma, in le Italia ci sono, vinci, macchinette. Certo, le macchinette. L'esplosione delle videolottery, come si chiamano adesso, è una cosa nuova, perché sono stati aperti moltissimi locali, tutti chiusi, non si vede niente, praticamente sembrano dei massaggi cinesi in realtà. Entri lì, ci sono le macchinette, nessuno può vederti, puoi goderti praticamente la tua privacy. Ma la privacy, ma allora gioca a casa su internet, c'è anche lì l'esplosione di siti dove puoi giocare alla roulette, al blackjack, eccetera. Internet bisogna averlo. Ma vabbè, ma ce l'hanno tutti internet. Beh, ma scusate, io ce l'ho. Tu ce l'hai? Io no. E come? Ma c'è internet? No. E come fai? Gioco al bar, tu vai al bar a giocare? Ma come fai? Sei minore. Beh, non è che vado da solo, vado con mio fratello. Vabbè, comunque al bar la gente poi si vergogna a lungo andare, farsi vedere sempre a giocare. E quindi preferisce andare in queste videolottery, dove almeno la privacy è rispettata. Vero Rodotà che di privacy se ne intende? La privacy è stata usata come un alibi, come uno strumento, come una ipocrita vetrina per limitare la libertà. Quindi lui sta parlando di vetrine, le vetrine delle sale giochi. Certo. La privacy, garantiscono la privacy a chi gioca, però toglie anche la libertà alla gente, perché la gente si ammala di ludopatia, capito? Di dipendenza dal gioco d'azzardo. E quindi adesso ci sarà il nuovo lavoro del ludopata, cioè quello che cura... Tutti andranno dal ludopata. I ludopatici. Invece lo psichiatra Furio Ravera, che non è un ludopata, scrive sul Corriere della Sera che alla base della ludopatia c'è il meccanismo della ricompensa. Bambini, state seguendo o no? Perché vi vedo un po'... meccanismo della ricompensa, vale a dire la percezione di una sensazione piacevole che segue un certo comportamento e che spinge a ripeterlo per ottenere la stessa identica ricompensa. Avete capito? È una specie di dog death, no? Io lo faccio con Tito, perché funziona coi cani questa cosa qui. La ricompensa. Devi premiarlo e non punirlo. Hai capito? Anche se ti fa la pipì, tu dovresti, devi premiare. No, lì lo devi trascurare, non so. Tito, dai, no, ma non ti trascuro, su, Tito, no. Sì. L'importante è non trascurare le famiglie, perché il videopoker porta appunto a trascurare famiglie, mogli, affetti, tutto. Patrimoni anche. Patrimoni, quindi meglio una bella partita dadi in famiglia tutti insieme, come facevano i Rolling Stones mentre registravano Exile on Main Street. Ma cosa stai sulla dicendo? Costa Azzurra giocavano a dadi tutto il tempo, Ma chi? I Rolling Stones, ma così dice la canzone. Quale canzone? Canzone. Do as I'm afraid. Oh, I can't wait. bambini. Bambini? Sì. Allora, interrogazione. Come interrogazione? Così. Non era prevista. Sì, allora, vogliamo sapere i nomi dei Rolling Stones. Questa qui la so, è Rolling Stones. Tu allora, dai, che sono in tour adesso, dai. Stanno celebrando il loro cinquantesimo anniversario. Mike Jagger? Sì, no, più o meno, dai, vai avanti, vai, dai. Quello che suona la batteria, come si chiama? Ron Wood? Sì, sì, che sembra un alieno, quello con gli occhi. Ma Ron Wood non suona la batteria. Che suona la batteria e si chiama Charlie Watts, sì, va bene. E poi c'è l'altro che è quello che c'ha l'anello col teschio, no? Quello è Keith Richard. Ma Keith non sono Richard. sono cinque. Eh sì, il quinto nessuno se lo ricorda. Come no, me lo ricordo io. È Pino Daniele. Ma che è Pino Daniele? Questi sono i Rolling Stones? E poi sono i quattro. Vabbè, sui Rolling erano preparati. Ma quali Rolling, capa? Quelli che dicono Rolling non li sopporto. Si chiamano gli Stones. Vabbè, io comunque preferisco i Beatles. Quindi, vabbè. Erano preparati, bene. Ma qui stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando del... Del gioco. Sì. Del gioco d'azzardo. E della ludopatia. Avete capito qualcosa del meccanismo della ricompensa? Dello psichiatra, Fulvio Ravera. Ma che fai? Vedi, il problema è questo qua. Troppe canzoni e parole che noi non capiamo. Ma, adesso io vorrei dire, adesso con tutto il rispetto, no, perché io sono l'alunno e voi i maestri, no? Ecco bene, sì. Tienilo bene presente. Se invece di tante parole, se andassimo a fare una gita alla sala per imparare, no? Una gita dove? Sul posto, dove accadono le cose, noi capiamo. A Las Vegas magari, ma non possono andare i bambini nei casinò, vietato i minori. Las Vegas, io ci sono stato, sotto casa. Come? Sotto casa. Ma no, ma quella lì ma cos'è? È una sala giochi. Non hai capito. Allora, quella lì è Las Vegas, è il nome, no? Come dire, se vai alla pizzeria Posillipo, non è che vai a Posillipo, sei in Viale Gambara, no? No, quale Posillipo? È Las Vegas, sotto casa. Ma non ci possono entrare tutti, eh? Bisogna essere grandi per entrare. Io entro perché conosco la ragazza. In più dentro ci sono il videopoker, i slot machine e allora tante cose. Allora, non si può giocare. Allora gioco e sono anche i trucchi. Allora andiamo. Andiamo a Las Vegas. Andiamo a Las Vegas. Andiamo subito però. Andiamo a Las Vegas. Andiamo a Las Vegas. Allora, viva Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva. Fatta entrare. Vabbè, grazie, però adesso esco da solo. ABC! Un programma di... E drago! Oh, bim, bum, bam, dispari, pari, bisogna dirlo quanto è. 50 euro, è un azzardo. È il gioco d'azzardo. B, C, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B